da quando non ci sei. Io vivo un po' così, nel disordine che sai. Ogni giorno uguale a ieri, da quando non ci sei. Mi manchi, non lo sai, tutta questa libertà non mi basta e non mi dà l'emozione che vorrei. La sera a casa poi, con te io parlerei, e vorrei che fossi tu a svegliarmi come allora. Sarà la nostalgia che cresce dentro me. Io ti chiedo scusa e poi butto in aria i sogni miei e ti prendo come sei. Fammi riprovare ancora, più forte che mai, una volta ancora. Segreto la felicità, per averla quanto costerà, toccare il fondo per tornare su, ancora noi. Io sono qui se tu mi vuoi, tu prendimi così. Quanto costerà toccare il fondo per tornare su, ancora noi. Io sono qui se tu mi vuoi.